Però ti sento Pio Pio, dimmi, come senti? Pio. Pio Pio Pio Pio Pio Pio. Si è copiato in mezzo al QRM, cambia. Negativo il passaggio, ma ci vediamo. Negativo. Basta, guarda, vai. Comunque ti auguro un buon anno per tutto, se non ce la sentiamo prima. A te il QRM familiare. Ciao, ma ci vediamo. Ti sento più pio, non riesco a tirarti fuori. Yeah. capitato, quindi è un casino. Sì, vabbè, pazienza, va. Sì, cosa ci vuoi fare? Pazienza. Cosa vuoi fare? Nulla. Sì, appunto. Non ci riusciamo a fare niente. Ok, va bene così allora, va. Va. Speriamo tutto che sia una cosa più positiva non hanno, diciamo, va. Vediamo. Ti ho sentito nessuno in radio stasera, no? Ah, ho sentito Gianni Poncanzi, ma Poncanzi da molto, vai, però dice poi gli ha squillato il telefono, e non ha più ripreso. È tutto più fuggi, no? Esatto, tutto più fuggi ha fatto. Ma va bene lo stesso, poi c'era Pomponio, Graziano, Gian Maria, vai. E niente, abbiamo cambiato due parole, poi io sono dovuto uscire dall'ultimo e ho mollato un po'. Che caparoggio là? No, ma io dopo la mezzanotte si accendo se c'è qualcuno a fare gli auguri. L'anno scorso non dovevo accendere nessuno, invece eravamo in tutti a radio. Guarda, guarda, già andare. Tanto stavolta ti tocca mangiare fuori, ma ragione, ah, ma ce ne facciamo gli auguri, vai. Sì, ci mancherebbe altro. Già ci siamo l'occasione, siamo questa notte, domani, fin del tempo. Ci mancherebbe aglio. Sì, Luca lì. Che magana. Più o meno sta. No, adesso lo fa. Cazzo. Se ci vuole ci vuole più lì. Ma non ne ha più venti, però buccia per la roba ancora che quella che mancava. Non ci trovi io, ne fa dall'aria. Ciao Luca. Ciao, guarda se questo microfonino sta conoscendo la scarica, come dicevi l'altro giorno. Negativo. Vediamo. Lo Royer qua è che bello. Ragazzi, dove ci diretto? Sì, adesso ho sceso un attimino mia moglie a comprare il pane alla pupa. E poi siamo diretti da Tarimano. Devo comprare sempre un regalino a mia nipotina. Ci rimasto solo a quello da fare. Una gallina. Un regalino a mia nipotina. Se lo compri su una gallina a mia nipotina. Ah, ragazzi, va. L'ultimo regalino, Luca, ieri, lo sai che sempre all'ultimo esce, no? Via. Questo qualcosa vuol dire regalo. Ma io non ci ho fatto nulla a nessuno. Ma il proprio zero, lo sai che vuol dire zero. L'unica cosa che sto facendo è un pensierino a mia nipotina e basta. Ti hanno pulito di là, Massimiliano, cosa fai? Vabbè, vabbè, cosa devi fare? Grazie bambine. Una magliettina e via. E chi su chi è? Basta il pensiero, dai. E appunto per quello. Riprendi, va, fai che. Via. Caparogero, spendi poco e carica molto. Se me lo carichi io la vado. Adesso lunedì mi tocca sistemarmi la macchina. Faccia visita. E vado, dai. Piano piano, già si accorta tutto. Io non voglio fare un regalo a nessuno che me l'ho fatto io. Proprio non ci voleva quello, veramente. Non ci voleva. E a Positini, si può appuntare i grossi, a Positini, le portate non ti si è fatto male due di nessuno, capito? Poi i media si mettono a posto piano piano. Magari, e tu lui, al PC? Ah, io sono indeciso, mi hanno invitato, ma non è più grano Massimiliano. E ecco, si sta facendo la compita, non mi stanno problemi. Mi hanno invitato, però boh, non si andare. Non fa per me. Poi è un casino quando non c'è soldi, cazzo, portare una bottiglia a passione in quelle sfumate. Poi di suo modo ovviamente, se no. Ma se vuoi lavorare al computer. E lui non riesco, capito? No? Che casino, beh, una tale di merda proprio, ora. Lui, non ti capisco. È quello che rompe le palle, capito? Se poi devi andare a casa della gente non puoi portare niente. È quello che rompe veramente le palle. Vabbè, ma lui, si capiscono queste cose. Quando non si può fare, pazienza. Vabbè, si vede. È un casino, Gert, è un casino. Cazzo, non mi lo dirà. Io ho convinto, faccio un barattare invece. Un cazzo. Peggio di hanno passato, peggio. Ma hanno passato anche cosa in più, via. Mi chiamano peggio, peggio, peggio. Mi pare che non sono per te, un po' per tutti. E vabbè, io ci vuoi fare, va. Già passerà anche questo Natale. Vorrei dire che l'anno che viene sarà migliore, se ne arriva. Purtroppo, quando non si può, non si può. Cazzo, puoi andare in cani così, l'anno prossimo sarà migliore. Figlio, l'anno prossimo sarà meglio, peggio ancora. Grazie. 4. Beh, io sapevo che dovevo prendere la macchina e non ho riuscito nulla. Acqua, quando rientro a casa, la notte che stiamo cenando, mi posso il burro di litri di vino, però solo non devo uscire, però quando sai che devi uscire, chi dà ragione, lo devi bere e basta. A me la patente mi dispiace, ma mi serve per lavoro, preferisco più avere la patente in tasca che avercela loro in tasca. Capito, vai dunque, avete funzione. La patente bisogna tenere la fretta, Se stanno, come si dice, stanno bombardando. Vieni tu, giuri, vieni. Stanno bombardando, e occhio, bisogna tenere la fretta, perché se tu vieni quello con le spalle girate, non te la torna più, Però io dico una cosa, che è una cosa giusta. Uno che deve guidare non deve bere, perché magari non si fa male lui e ammazza a sé, in più siciliano. È una cosa giusta, guarda, io per me ne posso ritirare anche 200. Io quando so che devo prendere la macchina, non tocco nulla, zero, acqua e basta. E così è buono. E purtroppo io la penso così, poi ognuno la pensa come fare piace. Se vuole bere, beve. Io non dico quanto sono con guidare, da voi. Vabbè, finché vivi, poi guida tua moglie, andate un po' bene. Perché tua moglie è sana, non avevo nulla per guidare lì. E tutti quei grimbati, tipo con la sua macchina. Ma quando guidi tu, no. Non è giusto, non sono d'accordo, perché io non lo fa comunque. E poi fa del male agli altri. Non solo a se stesso, ma anche agli altri. Perciò fanno bene, guarda, fanno bene. Quello che sto dicendo io, magari non si fa male lui, ammazza l'altra persona. È così, io se devo bere bisogna che sono a casa, se no non picco nulla. Già che non picco io, figurati. Scappa. Ma perché tu scelati bene stanotte, che dopo stanotte su scintilla. Stanotte su scintilla al vino, Speriamo che qualcuno si ricordi a attaccare una macchina, saluti, ci muove in maglia troppo e non la guardi, da voi. Guarda, fai che l'anno scorso non doveva accendere nessuno la radio e mi pare finalmente lui, l'abbiamo acceso tutti per farci gli auguri. Gira rosso, ogni anno un detargino 72, perciò, scusate di me, di 2 anni. Cava cava, comunque arrivi bene, molto molto bene. Se piace l'antenna lì, guai. Spagna molto molto forte qua. Se stavi qua a Sassa di guai, perché è forte la radio che distruggi un po' di persone qua, eh. Ok, vai Massimiliano. Yeah. sono belle, proprio per gli anziani. Va bene lo stesso, dai. Bella la chiesa a voi, sa farla suonare. La sa farla suonare, però. Un casino. Andava avanti. Passerà da te, dai. Yeah. quarantena. Noi è caricato una di quelle palme, ho visto all'uscita via d'Italia che ci sono tutte quelle palme in mezzo alla strada. Sicuramente ci è uscita, cosa ne so, ha fatto per qualcosa, ci è uscita lì sopra e si è caricato la palma. Io la facevo, ero con la banda di mia moglie, sono arrivato a cosa, la rotonda, ho scalato, ho appena toccato il freno, la macchina stava andando dritta, allora per andare dritto ho accelerato, l'ho fatto andare dopo la sala di lezione, tanto macchine non ce n'erano, sono continuato a andare via. Perché io stamattina mi sono fatto il regalo di Natale. Dai. E danno la mia non più di tanto là, un pochino il paraurti, il forniciato del rosso e la striscia che ho rotto. E quella là io ho lanciato il paraurti e ho affiancato. E come hai fatto la signora? Di strada? No, oh, in poche parole, lui lo spinge, no? Mi ho caricato tutta la macchina della spesa, ma stavo andando tranquillo, non c'era nessuno, ho messo la retromarcia, gira quel collo, tranquillo per tornare alla retromarcia, e questo qua mi si è affiancato e si è parcheggiato. E io credo che non c'era nessuno, e infatti ho detto tra me, che se non c'è nessuno, quindi giro. Come giro il collo, metto la retromarcia, tra, tutta l'altra affiancata. Cosa vi è successo? No, no, interessante che ci possano rimediare le cose. Devi fare l'assicurazione, buonanotte. No, l'assicurazione è un caso di non faccio. Me la pago la tasca, la piano piano me la pago la tasca, se no l'assicurazione è un casino. No, un secondino, già, che devo scendere qua nel negozietto, lo prendo subito là. Ma si vede avanti, scavo se ti convenga, però affiancata questa è un bel. No, siamo già andati dal carrozziere e non vale la pena fare l'assicurazione, capito? Se no dopo mi aumenta a me per 2 anni e più salgo di 2 classi è un casino. E non conviene più nemmeno sbattersi adesso, se no poi è un casino, siamo entrati troppo. Quello è. Dai, un secondino già. Bene. Avanti, Yeah. vita l'ho avuta nell'anno 78-79. C'avevo l'attacco alla glutine ed era proprio quella lì, quella che poi tu avvitti con una specie di rotella nera. Thank you. mia che c'era così lo stesso. Era vetroletta bianca. Però dai, troppo scandaloso. Poi dai, lascia perdere, che già va bene. Cosa scandalosa. Va benissimo. Thank you. prende il pasto, cominciamo a prendere il pastore e salsiccia di quella ramicata. Poi c'è prosciutto crudo con la roba lì, con i grissini arrotolato, non so se l'hai mai fatta. Poi abbiamo la pasta al forno, gamberoni, calamari ripieni, polpi con le patate, poi non so cosa tanto si offende ancora. Yeah. proprio ci ha voluto fare un regalo, è fatto anche bene. Se no te l'avrò preso io, non c'è un problema. Però non mi toccare, perché se mi tocchi mi trovi. se tu mi dai lo schiaffo a quello prima, poi quello che ti piglia, ti piglia. Mi viene una specie di pallina a capo, a comunque da tenuta. E se ti preferisci? Grazie a te. Ti preferisci? Sì, però niente. Riprendi Roberto. Anche io così ho fatto le ultime spesucce, dai, per mangiare, così. C'era un sacco di gente, sono andato qua vicino alla Conad, ma era pieno di gente. Però, già ci sta, dai. Avanti Capri, e il menù tuo cosa consiste? Roba particolare o roba normale, Capri? Bianco. Avanti Mondi, prendi tu. Gianni ha chiuso in questo momento, perché c'ha persone a casa. C'è l'amico Capri da Muro, se non so se lo senti, penso di no, perché lui anche lui dice di sistemare la testa, e poi c'è il Falchetto. Ti lascio a Capri, se lo ascolti, prova un po' Capri. Purtroppo lui è una situazione di antenna ancora limitata, dai, avanti di nuovo Mondino. 27665, così hai detto? Sì, un attimino Capri, ci stiamo ascoltando, mi deve dire una cosa a Mondino, scusami un attimino. Preso? Da domenica scorsa, sabato scorso, di lì mi sono stancato parecchio. Facciamo una chiamata sul 21 se c'è qualcuno nel frattempo. Attenzione, canale 21 in compagnia di Falchetto e di Roberto. Avanti, chi vuole entrare? Vai, ripeti da Falchetto. Le bare sono tutti in preparazione, robe, Giulia. Sì, sicuramente così, ma io di notte poi tu sei rimasto, dopo aver fatto la tua o c'eri ancora? No. E dopo dormito, me lo dormendi, parlando dormito, Giulia. No, sono rimasto un po' con Pier Paolo, anche lui poi ha mollato, poi non so se c'era qualche donato, perché poi dovevano rientrare Capri e chi era un altro, non me la metto. Parlando ero stanco anch'io e ti sto dicendo, stavo parlando anche chiusi e mi sono chiuso le serrande, sono saltato stamattina, sono la parata ancora accesa, pensa un po'. Ma oggi non hai lavorato? No, oggi è negativo. Ti prendete quando lo eri? È positivo. Se no poi ti abitui a stare sempre in casa e poi non ve la vai in più. No. In casa sì, ci vuole il giusto riposo, ma dopo devi tornare a fare il tran tran quotidiano, capito? Sì, no, vai. Io adesso 3 giorni, vabbè, qua sono venerdì, sabato e domenica, 3 giorni, e mezza giornata oggi, vabbè, oggi ho lavorato fino alle 4:30, lavorato, diciamo, abbiamo sistemato, più che altro, stamattina qualcosa di più, e sono 3 giorni effettivi di riposo. Il riposo si fa per dire, perché poi la notte già fai tardi, ti mangi visto che pure il tavolo ti mangi oltre che la roba, per cui sarà anche una sfracchinata, magari non mentale, ma l'organismo già ne risente. Penso proprio di sì. E così si bruciano calorie, capito? E tutto insieme, dai. Vedete, te la magari un bel più da normale. Capito. E vuole cacciare i nomi puro. Allora, so, tra denti, il zinino e parte del scarico sono le parti che lavorano più di tutti in questi giorni di freddo. Gappa, hai ragione. Beh, tre cose, le gambe si riposano, ma queste tre cose sono quelle che proprio lavorano a coso, come si chiama, a ciclo pieno. Sì, non credo io, ma non credo proprio, ui. Comunque, per quanto ho capito, c'è uno, almeno di questi della frequenza, non ho sentito neanche uno, sino adesso che va fuori, siete tutti a casa. Buon per voi, soldi risparmiati, poveri quelli che fanno i cenoni, che organizzano vari, danno vari, ma se fai quelle cifre allucinate, per forza quella gente non ci va. Vabbè, così, da, io ti ripeto, te l'ho detto anche ieri, sono andato a fare di volte, ma per carità, c'è una schifetta, non è che mangi la roba che ti puoi magari cucinare a casa, sai quello che cucini, quello che ti mangi, capito? Ai cenoni non sai mai chi si mette le mani, lasciamo perdere. Va. Quello che è vero, poi ti fanno vedere, ti fanno nomi strani per dire c'è tratta di pesce fatto in salamuglia con cose, tutti i nomi strani, poi andiamo a andare su spaghetti fatti con un po' di cose, aglio per terra. Vedi un po', io non è che dico le cose, io le dico perché le vedo, capito? È tutto qua il discorso, questo al contrario, cioè si spendono vabbè, tanti di quei quattrini che poi ti fanno dire cose, ma cambia la fattura, mi mettevo 100 euro in tasca, 150 euro in tasca, andavo a fare una bella spesuccia, fate immagine, molto di mangiare nei ristoranti. Sì, sicuramente, infatti io non ho mai capito questo fatto qua. Se io vado al ristorante durante l'anno, a parte il periodo di Capodanno di Natale, per dire, puoi pagare 40, 50 euro a persona, esagerando, ma mangi un bel punto e ti scegli quello che vuoi tu. Qua devi pagare dai 100, 120, anche 140 euro, l'ultimo che ho visto, a persona che devi mangiare su chi ti dà il bene. Non esiste proprio, non esiste, guarda, io mi accontento più mangiare a casa, a parte poi per il fatto della patente, magari viaggiate poco a poco per un bicchiere in più, ti ferma la pattuglia e rischi anche la patente per un bicchiere di ma non esiste veramente. No. Vabbè, quello è ancora peggio, infatti io adesso se sono stanco tra un po', quando mi sento poco, poi se ne vuole la mia moglie mi chiama, lì che troppo, alzati, e torna a mangiare, poi quando sono peccato mi do la cucca, così non ho problemi di cosa, tu fai cosa se io stasera avessi dovuto andare, cioè fossi andato a un cenone del Capodanno che minimo deve andare alle 11:15, dai, non deve andare prima, diciamo che c'è alle 11, per andare a questo cenone per iniziare a mangiare a quell'ora lì, fai alle 10:30, dai, cosa, anche alle 10:30 devo già dormire. E poi non dica stanotte, di lì stavo male, sì, no, sono un bel stanco, la sera è stato troppo male. Non male che sia così, no. Ci sono tanti pattugli, robe che non coincidono, capito? E poi i vicini con la polizia vanno. Fanno tutte le postazioni dove c'erano tanti cinturini e compagnia bella. Voi le vedrate le belle, patente ritirate, grazie. Sì, no, ma io da certi punti di vista sono giù, anche giusto, perché c'è gente che poi si mette a camminare, io dico, se sei embriaco, ma non è la tua moglie, è un amico che non beve, cioè, perché c'è gente, io ho visto gente sfidata, a me una volta mi è andata a bere a Brigumi, questo qua mi è entrato contro mano, nella mia corsia, a Giumano mi ha ammazzato, una 133, come si chiama, una, ma come si chiama, quella dell'Alfa Romeo, una fa 33 rossa, me la sono fotografata nel cervello. Se mi prende, mi ammazza a me, a mia moglie e a mia figlia, tutti quanti si ammazza. Io mi sono buttato tutto dalla parte, meno male c'era lo spazio, sono il cliente, io sono andato a 120. Disgraziati, è quello. Io purtroppo noi si capiteggia niente, no? Danno a chi non c'entra niente, capito? Fa bene anche la polizia che tira le partite. Io sono qua, sono proprio d'accordissimo, se uno esce in vettura deve bere acqua, punto e basta. E anche di bene, ma è utile la gente che dice il tasso è 0,5, ti puoi bere due bottiglie di birra, ma mezza bottiglia. Non è di bene, è inutile, tu dici a me mi va tenuta una bottiglia di birra. C'è gente che li fa cosa? Una bottiglia di birra lo rende mezzo conto. E i riflessi non sono quelli lì. Per cui tu se non hai macchina devi capire, non ci devi, non devi bere, basta. Poi, se non dici se vuoi bere, puoi bere, però ti fa accompagnare, mi amo di guida. Se io dovessi andare a un cenno, cosa dico? Guida tu, se sono appena, io non sono tipo per me, per trattamenti, bevo quasi niente, ma se sei in compagnia ti farà salgino, però si sa che a Natale Capodanno c'è sempre lo sfumante, poi durante i pasti c'è sempre la birra, c'è il vinello, eccetera, eccetera, alla fine ne vendo uno, ne vendo uno, e alla fine ti vendo un litro di roba, per cui devi stare anche un po' attento, per cui a quel punto lì io non sono in condizione di guidare, perché io ti trovo qualunque ubriaco che ti dica che non è cotto, trovo un ubriaco che mi dice che è cotto, non ne conosco io. Va bene, quindi è vero, va bene, è vero. Ma io sono del parere anche, sì, vabbè, ho bevuto un po' di più. Pazienza, parcheggio la macchina, ti fa un bel pisolino, ti riposi, stanoci in condizioni di poter utilizzare la vettura, la utilizzi, se no fermati pure, lasciala stare tutto il mondo come me, capito? Se no fai danno a basta, fai danno a te e anche alle altre persone. Il problema non è tanto far danno a te, cacchio, che ammazzi lascia il bastone e vedi che ti capita la famiglia che sta rientrando da un cenone in campagna, tranquilla, camminando piano piano, te ne basta. Quello che succede a me, io ero vicino, era un cenone vicino, verso le luci sale, più avanti c'era la campagna di mio cognato, eravamo di lì. Cosa ti fa di strada? Da lì a Tarina, quanto ci vuole, cacchio. Entrando lì, fa male, fa una di mano, mi ammazza. Ah, vedete, lo so. Purtroppo la gente imbecille c'è sempre, non c'è nulla da fare. Io lo so, purtroppo, vabbè, cambiamo argomento, a casa, vedete, ne una ieri stavo attraversando da casa, no? Già lo sanno che abito, da casa, stavo attraversando per andare verso la chiesetta che c'è, no? Sono entrato una punta nera, amaretta, e mi sono fermato di altro, cioè mi tocchi io devo capire, capito, sei imbecille. Ah, ma non sta proprio a partire la manettone, me l'hanno detto che ti vedono. Purtroppo è così, poi sono tutti questi ragazzi non patentati che mai vanno in 20 anni, che magari i primi 2-3 mesi camminano piano piano e si tracciano anche il traffico, poi dopo 3-4 mesi diventano tutti pilotti, cominciano a fare le macchine e non si rendono conto che la macchina per guidarla ci vuole esperienza, ci vogliono anni, non è che impari in 3 mesi a guidare la macchina. Io ti posso dire, io c'ho la macchina, guido la macchina quando avevo 13 anni, sono curato in mezzo alle macchine, ho guidato da tutte le parti, tutti i macchine, eppure le macchine ci vogliono piano. Dove non si può correre bisogna camminare piano, e dove c'è gente, c'è pericolo, cammino piano. Appunto, ma io dico una cosa, sì, i miei patentati addirittura hanno queste grosse macchine, grosse cilindrate di macchine, ma stiamo scherzando, non va bene, capito, ma sono queste macchine un 2000, 2005, 2008, 2009, ma io non capisco perché diano l'opportunità a queste persone di usare macchinoni grandi che con poca esperienza, poca e niente, diciamo. Sì, purtroppo la legge esiste, però i genitori con la loro madre di presa nella macchina, ma non con la madre da 156, 2000, turbo, eccetera, eccetera, e l'ufficio lo abbiglia. Molti la prendono anche di nascosto. Però purtroppo queste cose che dovrebbero controllare, più perché le moto, cosa vuol dire? Tu ti accendono le macchine, perché le moto a 6 metri. Anche le moto, dico, io parlo in generale, le moto idem la stessa identica cosa. Purtroppo, poi le strade, quale domani, 20 anni fa si poteva ancora camminare in macchina, il traffico non è come adesso, anche adesso sono, ci sono 10 volte le macchine che c'erano 20 anni fa, il traffico è congestionato, la gente cammina molto di più, ci sono più persone, se c'è tanto cose sommate, alla fine i rischi aumentano. Quando sai che c'è sotto il culo hai un mezzo veloce, devi andare piano, ci vuole prudenza, non tanto, ti può uscire un gatto, un cane, un qualsiasi cosa, fa male in moto, ma lo fuori insieme. No, sono proprio questi in moto, cacchio. Io il tema, a parte i ragazzini con questi scooter che se ne passano da tutto il passo, ti gira appena ti ritrovi una destra, una sinistra, contro una mano, tutto il passo. Poi non parliamo di quelli un po' più grandicelli, con queste moto Formula 1 che corre nel Belgio di Valentino Rossi, perché i veri piloti sono le prossime amici di gente che fa gare, che corrono, in città camminano tranquilli. E chi se ti rivede il mezzo di mappa, perché quello che si è ammazzato a socio, hai visto con la moto? C'è una moto, ma ti pare che corri a quelle velocità dentro città? No. È da incoscienti, noi siamo lì a girarla, è così, e la gente è incosciente, non c'è nulla da rimuovere. Aspetta, facciamo una chiamata sul 21, a vedere se qualcuno si è svegliato dall'oltretomba. Attenzione, canale 21, chi vuole entrare, avanti. Ancora facciamo a Domondino, una cosa vuole sapere? Dimmi. Adesso mi ricordo che ho una curiosità, quanti anni sei? Ha detto, cacca, non sapevo cosa vuoi. Non so quanti anni siamo un vino. Dico. No, vabbè, tu forse non hai mai sentito. L'hai sentito qualche volta? Sì, già l'ho sentito. Ma sei forse più giovane, 52 anni, c'ha. Parola. Ah, ma due secolo già, dai, è più. E vabbè, io ne ho 6 di meno, però pensavo che fosse più giovane lui, dai. Gli avrei dato una quarantina d'anni, dai, 43. Perché alla voce già sembra molto più giovane. E Capri quanti ne ha invece? Capri mi sembra che abbia 47-48, una cosa del genere. Ah, giusto, me l'ha detto ieri, Gianni, me l'ha detto, 48 anni se ne dimostra di più alla radio. C'ha figli un figlio di 23 anni, per cui se avesse sposato anche giovane. Positivo, senz'altro si è sposato giovane. E infatti al modo di modulare sembra molto molto molto più grande. Sembra uno di quei cibi di vecchia generazione, di vecchio stampo, molto educato, cortese, non ho mai sentito dire niente di volgare, proprio una persona veramente in gamba. Ah, quello è vero, è molto molto squisita la persona, molto educato, sì, su quella politica ha veramente ragione. Ma poi è disponibile, io non lo conosco fisicamente, nel senso non l'ho mai visto, ma Gianni che l'hanno conosciuto, c'è una persona veramente gentile, disponibile, proprio dice una bravissima persona. No, in effetti, a quanto ha confermato Gianni, è una persona squisita veramente, dai. Fa piacere, dai. Certo, se hanno qualche amico di farla entrare in frequenza, che è poco frequente, la stessa gente è brava, in gamba, non per dire niente di male di nessuno, però quando senti anche altre persone educate e cose del genere fa sempre piacere. Allora, aspetta un attimino, cosa avevo detto, adesso cambia il discorso, non mi sono dimenticato quello che dovevo dire, stavo parlando di Mondino, dai, e poi ci siamo usciti con Capri 2. Per quello mi sembra mi ha detto ne ha più di 50, quanti ha detto che ne ha? 55, boh. È una cosa del genere, 52, 53, boh. Che mi ha detto se c'è, che c'ha 60 anni, allora non me ne ha mai. Ah, sarà Mario è molto più grande, anche quelle persone lì sono grandi, dai. Ma tu l'hai conosciuti a... Vabbè, tu hai detto se da quel caso sei civile, già civile da prima. No, anche io ci sono... La bellezza 25 anni, poi ho mollato, capito, mi dicevano una porcheria, allora sono ripreso, capito. e piano piano stanno sfruttando i vecchi CB, perché l'altro giorno stavo parlando con un vecchio CB, si è scusato perché ce n'era uno nuovo, no? È entrato delle parole poco asate, no? Quello mi ha riconosciuto e si è scusato da parte di quello, infatti gli aveva detto guarda che non si entra così al baracchino, perché siamo amici, no? Allora ci sono molti modi anche di entrare al baracchino. Alla fin fine poi si è scusato, lui da parte di lui l'amico suo, poi è rientrato l'amico suo, si è scusato anche lui, dice che era insomma. Chi era un vecchio CB di 25 anni fa, pensa un po'. No, io sono nuovo e frequente, sono 4 anni più o meno. Come lo conosce Mario Mazza, l'hai conosciuto tu? A voglia. Mario Chirigatto, Kawasaki, non so se ne avete sentiti. Sì, di nome sì, anche se di un Mario dico lo conosci, parliamo di questi vecchi, degli vecchi, parliamo degli anziani, da Giulio Rollaro. Sì. Gio Maria, Mario Mano, io ne conosco parecchi di CB vecchi, capito? No, io pensavo fossi nuovo tu, nel senso di vecchia, di nuova generazione, No, negativo. Ti ripeto, io moderavo 25 anni fa e poi ho mollato perché era diventata una cosa un po' troppo pesante, allora ho mollato un po'. Poi lo sai, no, è una malattia al baracchino, allora mi sono ripreso e ciccio. Allora, non che ci sono delle persone abbastanza educate, va. Sì, rispetto a prima sicuramente, io vabbè prima non c'ero, è capitato qualche volta con qualche amico di sentire, ma prima aveva un bel apparaturi e c'era vedi, perché c'erano tutti i 23 canali occupati prima un sacco di gente, qualcuno magari si bisticciava, qualcuno si lamentava che quello lo disturbava, per cui c'era un po' di più di caos. Aspetta, volevo chiamare a Luca, devo dare la risposta, aspetta, se mi risponde, attenzione Luca se ci sei, avanti. Niente dai, non c'è, riprendi qualche... E dimmi una cosa, cosa avevi di stazione prima? La cosa va bene adesso? Sì, avevo sempre l'apparato in BM, modulavo sia la stazione fissa che è in BM, là. Ma l'antenna, questa che c'è adesso, non avevo un'altra? Avevo un'antenna... Avevo un'antenna della BM e modulavo quella. Anni per appoggiare sulla ringhiera. Ah, è positivo. Ma si va sparato, però io modulavo la Ussi, eh. Ah, dai, vabbè, da Ussi si è molto più in alto, sicuramente per certe zone va molto meglio di dove sei adesso. E avanti. Ciao, Roberto, ciao. Tu sei? Se non dicevi che eri Torino e non me la manchia te l'ho convinto che eri tu. Ti rilascio a Falchetto. A Torino, buonasera. È 9:15, se già non sei basso. Ti ascoltate anche più forte qualche volta, già lo so. Se vuoi puoi fare anche tu danno, come diciamo la questa. Facendo Falchetto, non so se l'hai mai sentito in modulazione. C'era una modulazione molto simile alla tua, guarda, è allucinante, molte volte ci mettiamo proprio, dobbiamo distinguerla. L'altro giorno gli ho detto, poi lui ha detto che tu io qualche volta parla in sangue, ho detto, tu non sai parlare in sangue, no, e mi ha subito smentito. Lui è della zona della Gallura, magari c'ha un altro tipo di accento, però già lo sa parlare in sangue. Ma io non lo so perché anche se posso ho fatto il controllo di lungo per pochi minuti, adesso sono certo che sta preparando un soggetto quasi, che aveva abbastanza e io con l'assistente più grande, la presentatore, mi andavo a un soggetto quasi. Sempre fa, almeno io ti ho sempre ascoltato forte, anche quando non pompavi c'è sempre stato il segnale superiore a 9. Non lo dico di persone normale, senza arrivare a potenza, parliamo di potenza normale, chi è che ti arriva più forte da Sassa? La cosa che mi arriva più forte è Torre, no? E poi che i anche sono 8, 7, 6, 5, 6, 5. Ma è Capri, l'hai sentito poco con me, forse 73, da muro, su come ti arriva a Capri? Addirittura 6-9-9-10 qua, con picchia 9-15, fatelo pronto. Io ritornando, aspetta, 15 watt. Adesso, aumentato. Picchia, che cos'è arrivato? Cos'è attaccato? La stufa da 3 kW. Qua sta arrivando 9-20 e anche di più, dai. Visto, è un ultra basso questo qua. Che cos'è? Che va la transistora qua? Anche un'antenna piccolina, però dice che uno di quelli che arriva più forte di tutti. E, ma perché ce l'ha di fronte, capito? La posizione che conta molte volte. Sì, sì, è naturale, non c'è problema. Comunque anche Torino, l'altro conosco cos'era l'amplificato del Falcone, scusa, Torino, che marca era? Sempre della testa. Ma transito dalla valvola? A valvola. Me l'ha messa, ha fatto presa, ma la sua garagia nel minimo 15-20 kg. Quindi era un buon ragione. Era grande, era grande, ma che è arrivato a prendere un po' cosa? Già preso Carlo? No, avevo preso il GP, avevo sentito, ha detto a Carlo. A Carlo che l'avevo detto io se tiene qualche tipo che era stato un trastero. Un giorno, è stato questo, per quanto che stava cercando la musica. Avendo così ricordata di Leonero, sono io il percorso, sono lamentato, la sera è venuto, l'ha provato, il giochiamo è quello. No, utilizzare quelle potenze lì, non sono tutti che ce l'hanno quelle potenze, c'è uno qua con la scartassa lì che ce l'ha, ma l'ha usato una volta a fare uno scherzo, più che altro a dare un colpo importante, buh, perché se attacchi 1000 watt in città, c'è un limbo, non c'è. Un giorno, mi sembra che sono una pubblicina da qua, un vecchio GP di corso di Colombo, aveva dato un corso, una presentazione, una presentazione, e ne sapeva, non fa con la sua. E l'ho portato fino a un chilo quattro, poi ho fatto un chilo quattro e mezzo, ho aumentato un po' di più e mi è saltato da tanto. Cacchio, figurati, stiamo parlando già di cosa. Io ho sentito quello da 3 kW di una persona, però quello usa altri tipi di generi di apparati, però dei CP qua al massimo si sentono 200-300 watt, non di più. Lui era su 30, io faccio una chiamata, ma il chiudino che si trovava a fondo all'uscita di sala di fronte. Ed è slaterato a fondo, e non è andato a slaterato, 40 cavalli. Figurati. Avanti Natale. Che bello, ero figli. Per pilotare quella creatura ci volevano 6 kW. Cacchia, cosa era? Non so, non bagno. E chi lo fa, insomma, è un grillo. Beh, facciamo entrare la panca, davanti, panca. Io, già sono assunta. Sono cose belle anche da vedersi, guarda. No, io non ne ho mai trovato, mi sbaglio, una volta me ne ha prestato uno da 25 watt, giù al mare, come ha attaccato, come ho scherzato il portante, mi è venuto subito il vicino, mi ha detto, mi hai annientato la televisione, mi ha detto, per te ne dico, ma era una scatoletta di sigarette, è quello. Ma tu cos'è il massimo che hai visto? Parliamo in apparati CB. Ah, CB perché qui viene un libro, ma non sono paragonabili a quel resto di oggi. Sì, naturalmente, stiamo parlando di lineari FCB. Conosco uno che questo qua se lo senti parlare, io ce l'avevo, adesso non faccio nome e cognome, perché già da un po' che non... un tecnico, che non sta entrando, sarà un minimo 15 anni. E lui, anche se ascolta la moto, lui ha detto che aveva la stazione più potente della provincia di Sassari, si vantava almeno. Ok. Non so se abbiamo guarito, ho visto Lidia, ho visto Bulldozer. Ma c'è lì, sei pulitato? Non è io. Mi sento uno strano, no? Perché sono sempre sotto la scrivania. Capì. Ah, beh, adesso io te li sento bene. Avanti, Torino. Cosa c'è visto l'ultimo incontro? Dove c'è stato l'ultimo che ha fatto la diciamo io gli amplificatori ho visto quelli per le bande radioamatoriali, ne ho visto uno costruito in Italia da non so se sarà 1 o 2 kW, quello della SPI che è una cosa allucinata, con la cordatura dell'antenna, come schiacci ti attacca, cioè ti fa attaccare 4 antenne in contemporanea, a seconda della frequenza di trasmissione ti accorda in una non so in quanti millesimi di secondo ti accorda qualunque antenna, c'è transistor, è una cosa allucinante, neanche gli americani sono riusciti a costruire una cosa del genere, infatti lo importano dall'Italia, talmente è fatto bene, c'ha l'indicatore digitale di potenza e cristalli liquidi, c'ha il valore di rosso indicato dall'apparato, è una cosa allucinante. Thank you. Thank you. diciamo, non dava una palmata, ma quando prende la scarica della valvola, non so un buffonatore, mi direi che te la prende piena la corrente. Sì, infatti mi raggiungo da pigliata, abbastanza. La stavo prendendo la valvola, deve essere che era ancora carica e... Anche tu ne sta parlando, va bene, Antonio, Natalia. Ma va, Antonio, avete parlato di lui. Sì, già lo so, è così, la prima cosa che ti dicono, ma le valvole, le apparati a valvole, assolutamente, ci sono apparati a valvole, apparati a valvole, io ti faccio vedere amplificatori a valvole per uso audio, che ci puoi mettere le mani sulla valvola, non succede niente. In altri tipi di apparati, dipende da come le fanno lavorare le valvole, sicuramente un amplificatore lineare di questi di radiofrequenza, lì devi stare molto attento, perché lì è tutto un arco voltaico, come ti tocchi ti fulmini. Guarda, noi stiamo parlando di amplificatori, io ho visto su YouTube c'è una canzone radio bulgara durante una giornata non di temporale, di una giornata come si chiama? È coperta, tipo oggi, dai, che non sta piovendo, e c'era il trasmettitore in trasmissione, non so, questo trasmettitore c'ha, mi sembra, 2 megawatt, 2 miliardi di watt, sono 2 miliardi di watt, perché, allora, un kilowatt sono 1000, no, 2 milioni di watt, no, 2 miliardi, sto dicendo fesserie, 2 milioni di watt, e tu devi vedere dai scintille cosa usciva, c'era l'arco voltaico che usciva dalle antenne, sicuramente se ti avvisi nella vista antenna cosa succede? E te lo spero come scusate, ma non ti conviene lasciare la mano, ma mettete un altro palo. non si trova, io ho la direttiva e mi ho messo un palo, poi mi ho messo la mantova e poi attaccata la mantova mi ho messo la multibanda. Non sei messo bene, vabbè? Non parliamo di CP. di Santa La Base qualcosa c'è. No, no, base intendo quale mercato del suo interno. Come mai, non ti so mettere giù? Qualche quindi poi posso fare quello che voglio, sì. Vabbè, cazzo, se c'è un condominio devi chiedere le chiavi per salire, come fa? Ah, negativo, no. Io, siccome non c'è porto, non c'è niente, chiedo a Francesca o quando torno a quella di fronte, mi piglio la scala e salgo dal terrazzo, capito? Sì, sì, adesso sì. Rami, ma devi metterci un po' di un certo livello, poi mettere la mano, ma mica ci metti un paletto della televisione. Ah, no, no, no, vabbè, ci metto un tubo d'occinti, se la faccio, la faccio bene. Per quello ti stai dicendo, dovresti chiedere a qualcuno, che ti metta a bucare, il testo non è tuo, è condominiale, non è così. Ah, così ti muovono mica da bucarlo, io in parenti metto le staffe grosse, capito, nel muretto di 50 centimetri, metto le staffe grosse e sono a posto. E già l'ha voluto, già lo sai, come me, non te lo devo segnare io. Avanti, torni. Sentiamo tutti. Sotto mano, io ho quello nero della Valcucci, non è il tocco di gamma. anticipo e poi c'ho questo brano della 60, vabbè, che sono questa musica. Però la Marcucci sono belli perché sono bellissimi come la regolazione, cioè, proprio molto sensibile la regolazione, la puoi fare anche per dire a 5 volte per arrivare, e quella male che ce l'ha di buono. Questa professione invece parte mi pare da 10 volte, da 10 a 20 volte. Ma dimmi una cosa, Grigio, la macchina c'ha due regolatori della cosa, della tensione, c'ha due strumenti di bianchi al centro, così è. Torino e Franchetto, io ce l'ho perché mi hanno chiamato perché da me è pronto a mandicare. Vi rinnovo gli auguri a tutti e due, tutto quello che desiderate. Se abbiamo modo di sentirci, se no vi faccio già adesso gli auguri per il nuovo anno. Ciao ciao Torino, fatti sentire più spesso, già lo sai che è sempre un piacere sentirti, e ciao Franchetto anche a te, già ci sentiamo abbastanza spesso. Buonasera da parte mia. Ciao Roberto, ciao Torino, se ce la faccio un saltino domani in paese. Torino ha copiato. Torino Pesce. Thank you. visto il telecolore apparato. Eia. E invece lei l'ha toccato per sbaglio. Oh, adesso sì, eh. Oh, sì, sì. Per sbaglio, deve essere. Perché ci siamo spostati su 19 alfa. E ho toccato le invece tutti e due le... Però erano quelli insieme. Mi sembrava strano quell'eco, hai toccato, ma... Che sorta di cosa stavo usando? Sì, hai ragione. È stanco un pezzo. Noi oggi abbiamo finito tutto, mi meno male. Tappa. Dopo già ce l'ho preso, dopo la... La tempesta, la quiete. Dai, ho aiutato un po' la 50 perché a cucinare oggi. E quindi sono un po' stanchino, poi è venuta la pralina, siamo andati a prendere il poisson. Ciao. E poco fa c'era da far mangiare. Non vi ha raccontato nulla. No. Io lo stavo solo ascoltando. E vedi, quella cosa che ti ho chiesto dopo pranzo per far, nulla è successo. Di quella cosa che mi hai chiesto dopo pranzo, nulla è successo. A me non me la mettava tu. Miscia mia. A me? No. Cavagamma. Va bene, dai. No problem. No. Tanto vorrebbe a te. Io non so bene a nessuno. Lo faccio la sincerità su vedere ogni giorno. Cavagamma. Ma io vabbè, non c'è problema. Andate. Antonio! Chiara! Riprenda, allora, è finita sì. Papà, meno male, oggi dopo duro lavoro. Adesso è arrivata la pausa. Ehi, meno male, là. Ci vuole, ma che ore sono? Le 20:54 minuti. Ma guarda come sta a mangiare, oh yeah. Manco la notte di Natale me la sta infatti, arrivi due. Fatti l'augurio, Gigi. Guarda, io ho 19 là.